Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Neve, pioggia e vento forte è proprio inverno. Nel fine settimana ancora tempo incerto, migliora verso Natale. Fine vita il dibattito dopo il caso della condanna di Asugi per aver continuato a somministrare le cure a un paziente che le rifiutava. Intervista con il legale della famiglia. Il bilancio del presidente della regione, conferenza stampa di fine anno per Fedriga. Taglia il premio di risultato dopo la cassa integrazione alla Savio di Pordenone. I lavoratori non ci stanno. Questa mattina uno sciopero. Cerca di alimentare una stufa con un flacone d'alcol investito da ritorno di fiamma, ustionato grave, un sessantenne a Muggia. Palmanova e la nuova vita della caserma Montezemolo sarà il cavò delle opere d'arte in caso di calamità naturali. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. Neve in montagna, precipitazioni intense sulle zone orientali e sulla costa, vento forte su tutta la regione che ha determinato alcune decine di interventi da parte dei vigili del fuoco, soprattutto per la rimozione di alberi caduti. Sono gli effetti del brusco passaggio di un fronte freddo che dovrebbe esaurirsi tuttavia nelle prossime ore, anche se in modo graduale. In montagna la neve caduta nelle ultime ore va dai 15 centimetri di Fondovalle nel Tarvisiano ai circa 30 di Sappade dello Zoncolan, una ventina di centimetri a Piancavallo, 15 a Forni di Sopra. Quanto al vento, le raffiche più forti nella zona di Trieste, oltre i 100 orari, intorno ai 90 a Grado e a Lignano, ma anche in pianura e a Gorizia hanno superato i 70. Sentiamo il servizio. È successo tutto nelle prime ore del mattino. Ai vigili del fuoco sono arrivate una cinquantina di chiamate per allagamenti di abitazioni e soprattutto alberi caduti per il forte vento. Le zone più colpite sono state quelle di San Daniele, Fagagna, Taipana e Mortegliano. Numerose anche le chiamate per interruzione delle linee elettriche. A Tarvisio in particolare è segnalato un guasto a una cabina, segnalata anche una caduta di massi a Resia. Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco anche nella destra Tagliamento. Le richieste di soccorso sono legate anche in questo caso alla presenza di alberi caduti lungo le strade. L'area più interessata dal maltempo comprende i comuni della pedemontana pordenonese, Traviano, Meduno, Sequals, Pinzano, Vito d'Asio e Frisanco. 3 auto danneggiate dalla caduta di piante nel pordenonese. A Trieste, città in tilt per il muro di acqua e vento nelle prime ore del mattino. A causa del vento, ancora forte, i giardini pubblici comunali recintati rimarranno chiusi al pubblico. A Udine, a causa delle precipitazioni e dell'abbassamento delle temperature, il comune ha attivato il piano dedicato alla prevenzione del ghiaccio sulle strade. Imbiancate diverse località montane. A Sappada nella notte una consistente nevicata ha ricoperto la località montana con 20 cm di coltre bianca, in azione i mezzi spazzaneve. Neve anche nel comprensorio di Ravascletto Zoncolan, a Forni di Sopra e a Tarvisio in Fondovalle. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo qual è la situazione al momento. Il cielo rimane coperto su tutto il Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste, a Gorizia e a Udine 8 gradi, a Pordenone 7,5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 1 grado, a Tarvisio 5 decimi di grado positivi, a Sappada meno 1,5 decimi. E ancora sul Piancavallo e a Forni di Sopra un grado positivo, sul Lussari meno 6, sullo Zoncolan meno 5, e tornando sulla costa a Grado 9, a Lignano 8 gradi. E ora le previsioni dell'ARPA da qui ai primi giorni della prossima settimana, in pratica fin quasi a Natale. Le ascoltiamo direttamente dalla voce di Marcellino Salvador. Dopo la perturbazione piuttosto intensa della mattinata di venerdì, nel pomeriggio sera di venerdì il tempo migliorerà, quindi c'è un'attenuazione del vento e un cielo che andrà sempre più rasserenandosi. Giornata di sabato col bel tempo, col sole, però temperature basse di notte, scenderanno sotto zero ovunque tranne che sulla costa. In montagna, in particolare laddove c'è neve, avremo valori anche al di sotto dei meno 10 nelle fasi notturne, quindi inverno pieno. Per quanto riguarda giornata di domenica, variabilità, arriva un'altra perturbazione dall'Atlantico, ma questa con una traiettoria che non produrrà grossi effetti, anche se verso sera è possibile che vi sia qualche debole precipitazione. Dopodiché direi con la prossima settimana prevarranno le correnti secche da nord-est e quindi si prospetta una settimana tra la settimana di Natale, quindi da lunedì fino al 28-29, con prevalenza di bel tempo sulla regione senza altri elementi significativi, seppur con temperature invernali come deve essere in questo periodo. Stanotte abbiamo avuto una nevicata tutto sommato anche abbastanza consistente, per cui tutto l'arco alpino è imbiancato fino ai 600 metri circa di quota e quindi è arrivata giusto in tempo. È ancora in corso nel Palazzo della Regione a Trieste la conferenza stampa del presidente Fedriga, appuntamento consueto di fine anno con il consuntivo e le prospettive, un appuntamento che però è cominciato con una mezz'ora abbondante di ritardo, dunque siamo ancora alla fase preliminare, per così dire. C'è in questo momento il resoconto del presidente della Regione si fa aiutare da una serie di diapositive. Più tardi le domande dei giornalisti e nelle prossime edizioni naturalmente saremo più precisi su quanto è emerso. C'è però invece questa mattina all'Assavio di Pordenone una protesta determinata dalla decurtazione del premio di risultato che si aggiunge ai disagi della cassa integrazione. Il nuovo anno si apre sotto i peggiori auspici per i dipendenti dell'azienda tessile. Lavoro in Savio da 21 anni ormai, 21 anni e mezzo, quindi non è la prima volta che ci troviamo qui in queste situazioni. Toccare anche il salario adesso, anche no. Una riduzione di salario pesa sulle tasche dei lavoratori, che hanno sempre dato il loro. Un'ora di sciopero a sorpresa, inizio turno, alla Savio Macchine Tessili di Pordenone, 310 dipendenti. I lavoratori, su cui già pesa la cassa integrazione, contestano il taglio dell'acconto sul premio di risultato, che in busta paga vale 161 euro al mese. Simonetta Chiarotto, FIOM. L'altro giorno l'azienda ci ha formalizzato la sospensione degli anticipi del premio di risultato, che sono anticipi storici che vengono erogati ai lavoratori e che fanno parte di una contrattazione aziendale e di un ragionamento di recupero di produttività che questi lavoratori stanno dando per effetto dell'ultimo piano industriale. Roberto Zami, Wilm. Questa iniziativa è partita spontaneamente dai lavoratori davanti a una comunicazione aziendale che gli concretizza un taglio del salario di oltre il 20%, perché 161 euro al mese in periodi in cui la gente sta facendo anche cassa integrazione, quindi ha già una riduzione dello stipendio. E il 2025 si apre con altre nubi all'orizzonte. Nicola Drico, FIM. Lo scenario è preoccupante soprattutto nella prima parte dell'anno, nel primo trimestre, dove ci sarà un uso massiccio della cassa integrazione. Al momento sono previste solo 3 settimane coperte, quindi sono 13 settimane di cassa integrazione, ma sarà un uso piuttosto massiccio. Chiaro che la situazione anche per il 2025 sarà leggermente meglio rispetto al 2024, però i numeri sono decisamente al di sotto della capacità di Savio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continua la crescita del gruppo Alfa Sistemi, azienda tecnologica friulana i cui ricavi per il 2024 sfiorano i 17 milioni di euro, mantenendo ormai dal 2019 un costante più 20% annuo. Per il 2025 l'impresa punta ai 25 milioni di ricavi e a un'acquisizione negli Stati Uniti. Alfa Sistemi, che conta 2 sedi tra Butrio e Udine, inoltre a Roma, Milano e in Thailandia, si occupa di information technology e consulenze aziendali in molteplici settori. Conta più di 180 addetti con un'età media di 36 anni. Le 12:38 e 40 secondi, la cronaca, un 60enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale triestino di Cattinara in seguito a ferite ed ustioni sul 30% del corpo. Durante una festa in un capanno a Crevatini nel comune di Muggia ha usato dell'alcol denaturato per alimentare una stufa. Il gesto ha innescato un ritorno di fiamma e la conseguente esplosione del flacone di alcol che ha investito l'uomo. L'incidente è avvenuto ieri sera sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In questi istanti il 60enne, che non è in pericolo di vita, è in trasferimento accompagnato dal personale medico verso il centro Grandi Ustionati di Padova. Una donna è rimasta ferita ieri sera in un incidente accaduto sulla strada regionale 354 alla Tisana. 2 le vetture coinvolte, una di esse finita in un fossato. I vigili del fuoco hanno dovuto operare in sinergia con il personale sanitario per estrarre la guidatrice che era incastrata nell'abitacolo. Illesi il figlio della ferita, uscito in modo autonomo dall'automobile, e l'altro conducente. Il traffico si sta intensificando sulla rete di autostrade Alto Adriatico in coincidenza con l'ultimo fine settimana prenatalizio. Nelle previsioni della concessionaria, nel pomeriggio il bollino da giallo diventerà rosso per il rientro dei mezzi commerciali verso il centro-est Europa e il ritorno dei lavoratori stranieri oltre confine. È probabile che si possano verificare code e rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Stessa situazione prevista nella giornata di domani, ma la circolazione dovrebbe migliorare verso sera e tornare alla normalità da domenica 22 a venerdì 3 gennaio. Intanto avanzano i lavori per il rifacimento dei 10 cavalcavia nel tratto dell'autostrada A4 Portogruaro-San Donà di Piave. Ben 5 i manufatti in fase di costruzione, 3 di questi in affiancamento a quelli già esistenti e 2 in sostituzione a quelli demoliti. A breve sarà abbattuto un altro cavalcavia. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di un incontro a Cessalto. L'importo complessivo dei lavori dei 10 cavalcavia, finanziati con fondi propri di Autostrade Alto Adriatico, è di circa 47 milioni di euro, mentre il quadro economico dell'investimento è di circa 83 milioni. Il termine dei cantieri è previsto per il 2026. Il dibattito sulle nuove province. Questa mattina una conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia. Una proposta politica che creerà discussione ma che punta a essere condivisa. Fratelli d'Italia a Gorizia lancia una mozione da presentare inizialmente nei vari consigli comunali dei territori per allargare quello della provincia, quando sarà ricostituita, a tutta l'area dell'arcidiocesi, quindi anche Cervignano, Aquileia, ma non solo, Terzo, Visco, Aiello, Tapogliano, Villa Vicentina, Fiumicello, Chiopris, San Vito al Torre, che in passato erano sotto Udine, e anche Duino, Urisile e Sgonico, appartenenti invece a Trieste. L'obiettivo della coordinatrice provinciale, senatrice Francesca Tubetti, consapevole delle difficoltà, è quello innanzitutto di tornare a un tavolo di discussione per il nuovo assetto territoriale con i comuni interessati e con la regione. Nessuna volontà, insomma, né di imporre né per ora di far partire un discorso referendario. Dobbiamo costituire una situazione regionale che non sia schiava né di Trieste né di Udine, ha detto l'indipendente Antonio Devetta, che è il firmatario della proposta. Tante le motivazioni amministrative, politiche, ma anche turistiche, economiche. Se l'iniziativa passasse, ad esempio, la nuova provincia di Gorizia diventerebbe leader nel nord-est del posto di Barca. Dobbiamo coinvolgere il territorio nel dibattito, ha detto Tubetti. Sarà la politica a decidere se questa idea è sostenuta. Nessuna preclusione da parte della regione, anche se potrebbero sorgere delle complicazioni per i tribunali, ad esempio. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati del 2018 e del 2023, il 90% dei beneficiari del sostegno pubblico dell'Abitare, ATER, in regione, sono italiani. Lo sottolinea Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, commentando la risposta ricevuta dall'assessore regionale competente alla sua interrogazione sul tema delle politiche abitative. Consigliere invita a superare la retorica divisiva concentrandosi sul miglioramento delle politiche abitative per tutti i cittadini in difficoltà e a garantire una gestione più efficace del patrimonio immobiliare pubblico, evidenziando il numero troppo elevato di alloggi non assegnati. In regione è vuoto un alloggio ATER su 5. Sono una sessantina i cantieri aperti per Go 2025 nel comune di Gorizia, quasi tutti in dirittura d'arrivo. Per il sindaco Ziberna sono una straordinaria opportunità per cambiare letteralmente la città. Sono 60, specificato, dai più piccoli ai più grandi, verde, aiuole, strade, marciapiedi. Gorizia sta investendo non già per il 2025, ma per il prossimo decennio. È una città con sempre maggiore appeal. Insomma, nel 2025 saremo l'ombelico del mondo. Lo ha ribadito il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. L'area dell'ex caserma Montezemolo di Palmanova, dell'estensione di circa 5 ettari, diventerà uno dei siti nazionali con depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro. Sarà anzi l'unico sito del nord-est all'interno del maxi progetto Recovery Art, quello in cui custodire e recuperare le opere d'arte italiane in caso di calamità, terremoti, inondazioni, frane e quant'altro possa metterne a repentaglio la conservazione. Il comune di Palmanova ha pubblicato il bando di gara per affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento. Per realizzare le strutture necessarie, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato 30 milioni di euro dai fondi statali a disposizione. Il bando, in scadenza il 9 gennaio, prevede di impegnarne 21. A breve partiranno i lavori di demolizione di alcuni fabbricati costruiti negli anni 60 e 70 del secolo scorso, non considerati meritevoli di tutela. Al loro loro posto, sarà realizzata un'ampia struttura che sarà il cuore della nuova Montezemolo, un edificio altamente tecnologico e sicuro con sistemi di controllo di umidità dell'aria e della temperatura, attrezzato con laboratori all'avanguardia. Alcuni appuntamenti: il genio della pop art sbarca a Gorizia, si inaugura questo pomeriggio a Palazzo Attem-Spetzenstein la mostra Andy Warhol Beyond the Borders. Attraverso 180 opere vengono ripercorse la carriera e la vita del grande artista americano a partire dalla sua iniziale esperienza di illustratore nel campo della pubblicità e della moda. Le opere esposte provengono da collezioni europee e trovano spazio numerose riviste degli anni 50, decine di copertine di dischi in vinile, video e fotografie. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, si potrà visitare fino al 4 maggio. Gli spettacoli a Staranzano: Monio Vadia è il protagonista di una performance ispirata all'enciclica Laudato Si, dedicata ai temi dell'ambiente e ai problemi del pianeta. È un'anteprima del Festival dell'Acqua e va in scena nella Sala San Pio X alle 21. A Tolmezzo, al Teatro Candoni, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase interpretano Delirio a due di Ionesco alle 20.45. A Trieste, Lorenzo Acquaviva e Andrea Mitri raccontano al Museo Sartorio vita e opere di un grande imprenditore in Lionello Stock, lo spirito di un'epoca. L'appuntamento è alle 16.30. E sempre a Trieste, ultimi appuntamenti per l'omaggio a Italo Svevo nell'anniversario della nascita. Alle 18 al Museo della Letteratura di Piazza Orti, su un viaggio musicale attraverso le idee che ispirarono la coscienza di Zeno, e alle 21 al Teatro dei Fabbri il dramma di Fulvio Senardi La guerra, Herr Schmitz, La guerra. A Udine, allo spazio Make di Via Manina, alle 18 un live degli autostoppisti del Magico Sentiero per la presentazione del nuovo album Narci Gisma. Siamo allo sport calcio. L'Udinese torna con l'attenzione al campionato di Serie A dopo l'esclusione dalla Coppa Italia. Ieri sera la sconfitta al Meazza contro l'Inter 2-0. Sotto i fitti goccioloni di San Siro, l'Udinese esce dalla Coppa Italia, eliminata agli ottavi da un Inter a cui, complici i due regali dei bianconeri nelle occasioni dei gol, basta fare una partita di ordinaria amministrazione. Rooney Aich schiera dal primo minuto Alexis Sanchez all'esordio stagionale dopo l'infortunio, ma è senza sei titolari: Davis, Giannetti, Pagero, Zarraga, Okoye e Lovric. Rispetto alla sfida di campionato con il Napoli, un cambio anche fra i pali, con il debutto dell'esordiente Piana, classe 2003. Tra i nerazzurri è Aslani a orchestrare il centrocampo e a propiziare la prima occasione dopo solo 5 minuti. Passaggio di 30 metri per Arnautovic, che controlla bene ma calcia male. L'arbitro Massimi prima segna il rigore per un tocco di braccio di Cabasele, ma dopo il controllo al VAR torna sui suoi passi. Il vantaggio arriva alla mezz'ora e Kellenkamp, che poco prima aveva sfiorato il gol, regala la palla a Taremi, bravo a vedere il movimento di Arnautovic alle spalle dei disattenti Bijol e Karlstrom. Sinistro facile nell'angolino e 1-0. Passa un quarto d'ora e dopo una breve interruzione per i soccorsi a un tifoso colto da malore, i nerazzurri raddoppiano con Aslani direttamente da calcio d'angolo, grazie anche alla mancata uscita di Piana. La ripresa è puro controllo da parte dei campioni d'Italia, da registrare solo un palo di Taremi a tu per tu con Piana a 10 minuti dalla fine, mentre l'unico squillo dell'Udinese arriva allo scadere con la botta da fuori area di Touré, respinta in corner da Martinez. Finisce senza gloria l'avventura in Coppa dei Bianconeri, attesi lunedì in campionato dalla difficile sfida sul campo della Fiorentina. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Marco Ferrito, collaborato in redazione Cristina Polselli. 12.48, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra cortese attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.